usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Buon pomeriggio, ovviamente siamo in ritardo perché abbiamo avuto dei gravi e gravissimissimi problemi tecnici, ma cosa sarebbero le ribelli senza problemi tecnici delle dirette? Sono i nostri migliori compagni di avventure, esattamente, tecnici. E quindi abbiamo iniziato con mezz'ora di ritardo, sono le 18:29, 17:29, scusate, e quindi adesso finiamo di ascoltare questa sigla e iniziamo carichissime. E vai! Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejó por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Beh, direi una delle sigle più belle di sempre. Rieccoci qui, noi siamo le ribelli e oggi parleremo di linguistica, di questioni di genere e abbiamo qui con noi una grandissima sociolinguista e... Tra l'altro siamo in un collegamento iperspaziale, ci saranno magari dei ritardi nelle voci, speriamo di no, ma probabilmente sì, vista la nostra fortuna. E c'è anche Giulia con noi, collegata. Ciao. Sempre da Edimburgo. Ciao. Quella Giulia, scusa. Vabbè, c'è Giulia da Edimburgo, collegata con noi, e invece Giulia, l'altra, è qui con me in radio che mi dà una mano con la regia. Sì, sto litigando col computer, tecnicamente. Come sempre c'è un surplus di Giulie al mondo. Siamo in tante, cara mia. Giulia, allora, Giulia di Edimburgo. Ok, ci dicono che funziona. Perfetto. Ci dicono che funziona. Perfetto. E vai. Bene, allora io vi saluto di Edimburgo, dove sono ancora le 4:31, quindi per me siamo puntualissime, sono in anticipo, oserei dire, e vi presenterei Vera. Ok, vi leggo due righe per presentarla, così capiamo che ci dice le cose con cognizione di causa, non perché si è svegliata al mattino decidendo di avere teorie sulla sociolinguistica. Allora, Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall'ungherese, ha collaborato per 20 anni con l'Accademia della Crusca. Attualmente lavora con la casa editrice Zanichelli e insegna come docente a contratto all'Università di Firenze. La prima monografia del 2016, guida pratica all'italiano scritto, senza diventare grammar nazi. Attenzione. Del 2017 è social linguistica, italiano e italiani dei social network. Nel 2018 è stata coautrice di Tienilo acceso, posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello, consiglio che darei a tutti e tutte. Nel 2019 ha dato alle stampe potere alle parole, perché usarle meglio. La tesi di laurea, ricerca, scrittura e revisione per chiudere in bellezza. Prima l'italiano, come scrivere bene, parlare meglio e non fare brutte figure. E poi infine femminili singolari, il femminismo è nelle parole. E è del 28 aprile 2020 l'ebook per Longanesi, parole contro la paura, istantanee dall'isolamento. E infine dal 14 settembre conduce con Carlo Cianetti il programma di Radio 1 Rai Linguacce, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 16, che io purtroppo non posso sentire perché la Rai non si può sentire fuori dall'Italia. Sono molto felice e onorata di avere Vera qua con noi. Io l'ho conosciuta tramite un seminario per insegnanti di lingua italiana, è stata illuminante e mi ha portato anche grandi spunti di riflessione. Credo che poi questo sia l'obiettivo migliore, no, delle persone, portare alla riflessione, non dare risposte definitive, ma portare le persone a riflettere sulla lingua e sulla società, ed è quello che proveremo a fare oggi. Va bene, grazie di avermi qua, mi spiace se il nostro tempo sarà ridotto, ma parleremo più velocemente. Siamo tutte orecchie. Beh, vogliamo iniziare subito con una domanda, visto che abbiamo Vera per questi minuti con noi. Vai, Giulia. Allora, io e Gioia ci siamo consultate e dopo grandi conversazioni profondissime siamo arrivate a questa prima grandissima domanda che ci siamo fatte. E che è una differenza, una domanda chiave secondo noi. Allora, qual è la differenza tra essere parlanti di una lingua e linguisti, e cosa c'entrano la lingua e la linguistica con le questioni di genere? Ok, allora intanto da fare una premessa fondamentale. La premessa fondamentale è che essere parlanti di una lingua non ci rende automaticamente linguisti, semplicemente perché quando noi parliamo una lingua non è detto che facciamo anche ragionamenti sulla lingua che parliamo. In altre parole, scusate, sento un ritorno pazzesco, quindi mi è un po' difficile concentrarmi. Allora, in altre parole, essere parlanti di una lingua non presuppone che noi facciamo quello che in gergo un po' più tecnico viene definito ragionamento metalinguistico. Cioè, parlare una lingua non ci fa per forza riflettere sulla lingua che parliamo, il che non toglie che un parlante possa tranquillamente fare dei ragionamenti sulla propria lingua, però normalmente li fa da persona che non ha studiato determinati ambiti del sapere. Per quanto molti lo neghino, la linguistica è una scienza, cioè ha delle parti profondamente scientifiche, anche quasi matematiche per certi versi, per cui non è del tutto indifferente avere studiato queste cose oppure no. Normalmente i linguisti chiamano i parlanti di una lingua linguisti ingenui, nel senso che hanno delle ingenuità, non è un'offesa, ma fa riferimento al fatto appunto che manca una competenza specifica. Perché lingua, linguisti e questioni di genere sono collegati? Ma molto semplice, perché la lingua è manifestazione di ciò che noi siamo, di come noi ci rapportiamo con gli altri e anche della nostra visione del mondo. Quando noi usiamo le parole che riflettono appunto la nostra visione del mondo, e quindi le parole non sono senza peso, ma anzi dicono moltissimo agli altri dei nostri mondi interiori. Un esempio molto pratico di una questione di genere che è molto linguistica è proprio quello di come nominare le donne che lavorano in determinati ambiti, che svolgono determinati mestieri. Chiamarle al maschile o al femminile non è indifferente, perché, questo è un dato noto, ciò che noi nominiamo si vede meglio, e quindi nel momento in cui noi non nominiamo al femminile una donna che fa un determinato lavoro, facciamo in modo che la sua presenza sia un po' meno evidente. Mi sembra chiaro che invece l'obiettivo che molte e molti di noi hanno è quello di normalizzare la presenza di donne in determinati ambienti lavorativi. Ergo, insomma, farsi chiamare ingegnere o ingegnera da donna non è del tutto indifferente. Poi io non sono mai impositiva rispetto a questo, però credo che sia importante chiedersi perché non abbiamo nessun problema a nominare una donna infermiera e ci facciamo così tante pippe mentali, chiamiamole così, per nominare una donna invece ingegnera, perché dal punto di vista linguistico c'è una sola lettera di differenza. Sì, appunto la cosa che forse perché non siamo abituati, semplicemente. È esattamente quello, però nessuno lo dice in questi termini. Normalmente le persone si inventano delle supercazzole pazzesche, cioè non lo dico perché il ruolo è neutro, non lo dico perché non si è mai detto, perché si lede la buona lingua italiana, perché non serve, perché non mi piace. In realtà il rasoio di Occam insegna, e hai detto bene tu, La motivazione vera è non ci siamo abituati e quindi, siccome noi siamo anche esseri molto abitudinari e renitenti al cambiamento, soprattutto quello linguistico, l'abitudine conta tantissimo. Sì, assolutamente. Tant'è che un ragionamento che io faccio sempre personalmente, appunto insegnando italiano, che tutti i miei alunni, quando iniziano a imparare italiano, costruiscono i femminili in modo completamente naturale, perché quando tu impari l'italiano impari che la O è maschile e la A è femminile, e quindi chiunque veda una parola come ad esempio, non so, architetto, mi dice: ah, il femminile è architetta. Esatto, ma è così peraltro, tranne rari casi che però sono una rarità. Cioè abbiamo parole femminili che finiscono in O, sì, abbiamo eco, abbiamo albedo, ne abbiamo varie. Abbiamo termini maschili che finiscono in A, quelli di più, perché ci sono tutti i nomi in ista, no? E in auta e così via, però ciò nonostante in linea di massima funziona esattamente così, e chi studia una lingua in maniera strutturale, no? Quindi da parlante L2, lo capisce senza pregiudizi sociali, sì. Che ci porta alla questione numero uno: il problema di chiamare architetta architetta o ingegnera l'ingegnera non è di tipo linguistico, ma è di tipo socioculturale. Sì, sono completamente d'accordo. E Gioia dalla radio, vogliamo fare una canzone o commentiamo il meraviglioso sondaggio che abbiamo mandato ad amici, familiari, parenti, tutti quanti? Ma direi mandiamo una canzone, così intanto rielaboriamo quello che ha appena detto Vera. E poi tra l'altro a questo proposito io volevo anche fare una domanda, però la farei dopo in realtà. Va bene? Ok. Benissimo. Allora Giulia, cosa ci propone il magico mondo della musica? In questo caso ci propone Britney Spears. A voi. Urca. You wanna. You want a hot body, you want a Bugatti, you want a Maserati, you better work, bitch, you want a Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini, you better work, bitch, you want to live fancy, live in a big mansion, party in France, you better work, bitch, you better work, bitch, you better work, bitch, you better work, bitch. Hold your head high.

tutti questi escamotage, la U, la X, perché poi dimentico sempre qualcosa, al momento nessuno di loro, intanto non sono in competizione, cioè tutti quanti servono per sottolineare l'esistenza di un'istanza che alcuni hanno più a cuore di altri. Per esempio, per me, il fatto che ci sia una parte dei miei connazionali, o come dire, persone che parlano la mia stessa lingua, che non si sentono rappresentate dal punto di vista linguistico, basta per far sì che io mi voglia occupare, voglia prendere in carico questa istanza. Però io stessa, come nessuno, ha una soluzione finale, definitiva, buona, che funzioni davvero per questo problema. Secondo me la cosa interessante di questo momento è che ci siamo posti la questione, tante persone più di prima se la pongono, quale sarà l'output finale di questa gigantesca nuvola di pensieri e di soluzioni esistenti al momento, non lo so, però intanto un primo passo è stato fatto, no? Cioè è knowledge, no? dare adito, come dire, mostrare che si è tenuto conto dell'esistenza di persone che non si riconoscono nei due generi. Sì. Grazie, cavolo, sì. Sì, c'è anche uno scritto interessante di Vera, se cercate su internet, cioè. Allora dopo lo possiamo pubblicare. La brava secchiona quale sono. Non solo prof, ma anche secchiona, ci piace. Allora, beh, quando il link di questo testo possiamo anche poi condividerlo sui nostri canali social, certo. Che direi che rimando a dopo l'elenco, la spatazzata. Sì. Così se Vera ci dedica ancora pochi minuti, sì. Possiamo fare la seconda domanda e sì. Ok, vai. Introduco brevemente la seconda domanda. Allora, chi ha partecipato al sondaggio sicuramente sa che stiamo parlando che parleremo di femminili professionali, i nomi professionali femminili, e dal sondaggio è emerso che molte persone, noi abbiamo chiesto quali fossero i femminili di architetto, sindaco, ministro, studente, presidente. Quasi tutti direi che sono andati correttamente sullo studente e il presidente, quindi dicendo studentessa, la presidente, e qualcuno ha detto presidentessa. Uh-huh. E invece su architetto, sindaco e ministro le risposte sono state praticamente o non esiste, oppure è una carica istituzionale quindi il femminile non esiste, oppure uh-huh. Il femminile esiste ma non si usa. Qualcuno ha nominato la sindaca Raggi per uh-huh. Assonanza. E poi abbiamo fatto anche altre due domande, mettendo a confronto maestro e maestra e segretario e segretaria, abbiamo chiesto qual è la differenza di percezione che avete rispetto al maschile e femminile. E alcune risposte sono state molto corpose, molto interessanti, dicendo che per quanto riguarda maestro o maestra, la maestra è quella dell'elementare, invece il maestro può essere un istruttore di musica, di un altro sport, o comunque qualcuno di più esperto. Riassumo ovviamente. Invece per quanto riguarda segretario e segretaria, molti hanno associato il segretario come una carica politica o comunque qualcuno di più alto livello, segretario di Stato per esempio, mentre la segretaria una persona che lavora sotto un capo, generalmente uomo, che risponde al telefono e sbriga l'amministrazione. Qualcuno addirittura ha detto: mi preoccupo di me stessa perché non riesco ad immaginarmi un segretario uomo che risponde al telefono e sbrighi l'amministrazione. Posso fare un commento brevissimo? Nei prossimi 4 minuti cercherò di commentare queste 4 questioni. Allora, intanto non mischiamo il livello del ruolo col livello dell'appellativo personale. Cioè noi possiamo continuare a parlare del ruolo di sindaco e del ruolo di ministro, come pure del ruolo di professore, e questo non vuol dire che poi quando nominiamo una persona direttamente non possiamo dire la sindaca, la professoressa, la ministra, prima cosa. Quindi la questione della neutralità dei ruoli non ha scientificamente nessun tipo di veridicità, tant'è vero che diciamo la regina Elisabetta, non diciamo il re Elisabetta, giusto per fare un esempio di ruolo massimamente apicale. Poi nel caso dei nomi tipo presidente, studente, eccetera, l'orientamento contemporaneo è quello di preferire il semplice cambio di articolo, e quindi insegnante come la docente, la presidente, perché sono nomi cosiddetti epiceni, cioè sono già ambigeneri e quindi basta cambiare l'articolo. Nel caso però di forme che sono già entrate nell'uso in un certo modo, e qui mi riferisco soprattutto a studentessa, Si può anche continuare a usare studentessa invece di dire la studente, e questo va bene, però diciamo che per i femminili non troppo comuni nell'uso, se c'è la scelta fra essa e invece il femminile a suffisso zero, è meglio il suffisso zero. In altre parole, fra avvocatessa e avvocata è meglio avvocata, ma dottoressa non tocchiamolo perché è comunissimo. La questione di maestro direttore segretario versus maestra direttrice segretaria, si parla di percezione per l'appunto. Se voi andate a vedere nel vocabolario, il vocabolario non pone alcuna differenza di significato fra il femminile e il maschile, quindi siamo sul livello della cosiddetta connotazione, ossia come noi percepiamo una certa parola, che però non è del tutto dipendente da quello che la parola significa. Quindi come si fa? Si insiste a usare il femminile anche là dove non siamo abituati, e in questo modo cambia anche la percezione della parola. Quindi riprendiamoci il segretaria di Stato, riprendiamoci il direttrice di un quotidiano, riprendiamoci il maestra d'orchestra. È solo questione di abitudine. Finisco con una cosa: tutti questi femminili li trovate nei vocabolari più moderni, il che vuol dire un vocabolario degli ultimi 5-6 anni sicuramente. Lo Zingarelli, che è quello per cui io lavoro ma che uso anche quotidianamente, riporta più di 800 femminili dal 1994. Quindi se avete un dubbio, ma si dirà ingegnera, ma si dirà, non lo so, gestrice o gestora, ma si dirà minatrice, esiste agricoltrice, se andate a vedere nello Zingarelli, a tutte queste cose troverete risposta, senza dubbi, diciamo così. Grazie mille, molto esaustiva. Grazie. Anche qui con una piccola dose dell'essere professoressa, giustamente, quindi... Sono circondata da maestre e professoresse in questo momento. Basta che non diventi un maestrino. Io direi che sicuramente noi ti ringraziamo tantissimo. Gioia, poi grazie. Ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato il tuo tempo. Sei impegnatissima, forse perché porti avanti un messaggio importante, secondo me, cioè quello che cambiando il modo di parlare cambiamo anche un po' la società. Questo è un obiettivo futuristico, però ci proviamo ognuno nel la quotidiano. La goccia scava la pietra. Esatto, e quindi avanti. Sei impegnatissima, daremo poi tutti i tuoi riferimenti anche sui social network per chi ti volesse seguire, e sicuramente consiglieremo degli articoli che hai scritto riguardo, quindi poi chi vorrà approfondire potrà farlo. E so che adesso hai un'altra diretta, quindi esatto. Ti ringraziamo tantissimo. No, è stato così. Però ti ringraziamo veramente tanto, è stato un piacere averti con noi. Rifacciamolo magari con più tranquillità, insomma, va bene. Io sono disponibile. Grazie mille. Ci scusiamo ancora per i problemi tecnici. Non iniziali. Davvero. Grazie mille. Ciao. Ok, Giulia, se rimaste io e voi, perché... Quante G in qual è, questa qual è, puntata? Qual è il plurale di Giulia? Giulia. Beh, direi che la domanda... Dai, è una bella battuta, Giulia. Stavo cercando un modo di risponderti divertente, ma non lo so, questo momento tecnologico ha risucchiato tutte le mie energie. Vabbè. La risposta di Gioia è Gioia. Non ho capito la risposta. Ho detto, scusate, il plurale di Gioia. Di che si è messo bene. Comunque, bella puntata. Mi spiace per il problema tecnico iniziale, perché Vera poi tocca un argomento che a me sta molto a cuore, la linguistica in generale. Avendo studiato lingue in un passato molto remoto, credo che sia degli studi più interessanti che ho fatto. E quindi poi applicata a questo campo, quindi come portare avanti un messaggio femminista anche nel linguaggio, è assolutamente bellissimo. E poi lei è assolutamente chiara, è molto... Lei è una prof. Tra l'altro, scusa, poi sento il mio rimbombo. È che mi sa che dopo non mi senti, Giulia. Ah, ok, non è un problema. No, dicevo che lei ha veramente scritto tanti articoli molto chiare, anche molto brevi, quindi io direi che poi nei vari post, che adesso puoi ricordare i miei canali, possiamo mettere dei link, dei riferimenti, in modo tale che chi è interessato all'argomento possa veramente andare ad approfondire. Io ho letto alcune cose, quindi poi se vogliamo dopo qualche canzone posso anche accennare ad altri studi che lei ha fatto, per continuare un po' a parlare di questo argomento. E se qualcuno dovesse avere domande può scrivere. Adesso Gioia ci ricorda tutti i nostri canali meravigliosi. Evviva, è arrivato il mio momento, però meno male che c'è anche l'altra Giulia qui vicino a me, perché mi potrà sgridare qualora sbagliassi. Quindi allora, adesso mi chiarisco un attimo la voce. prova. Mi sta guardando malissimo, giustamente. Allora, come potete contattarci? Ci potete contattare, scrivere su Telegram, cercando chiocciola radio Zam. Ciao. Trattino basso, radio Zam trattino basso chat. Ok, e lì potete scriverci qualsiasi commento, qualsiasi osservazione, e scriveteci anche se volete che lo riportiamo qua in diretta radio oppure no. E poi potete scrivere anche un messaggio alla pagina Facebook. Abbiamo una domanda, Facebook. Infatti. Abbiamo una domanda. Sì, a tal proposito. Urca, aspetta, che devo... No, te la leggo io, tranquilla, sono qua apposta, cara. Wow. Ma come si fa per meccanico operatore al femminile? Diventa meccanica la scienza? Diventiamo scienza. Cerchiamo sullo Zanichelli. Andate a cercare sullo Zanichelli. Ha risposto veramente bene, Vera. No, adesso cerchiamo. Io cerco adesso sullo Zanichelli. No, vabbè, anche chi... Vabbè, no, certo. Adoro. No, allora, per quanto riguarda operatore e operatrice. Sì. Cosa? Le operatrici sanitarie, ad esempio. Operatrice. No, chiede meccanico, il meccanico. Ah. La domanda è su il meccanico, che la meccanica in effetti potrebbe avere un altro significato. Meccanico, dal latino meccanicus. Vero Giulia? Il femminile regolare di meccanico è meccanica. Meccanica? Sì. Quindi... Sì, la meccanica. Da piccola sognavo di fare la meccanica, perché mi sembrava proprio una cosa super potente, saper aggiustare le macchine. La meccanica poi è super potente. No. Sì. L'obiezione è poi continuo. L'obiezione, no, scusatemi, io devo chiedere scusa ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, perché sono fusa, mi dispiace. Mi sentite, ragazzi? Sì, ti sentiamo. Ah, no, stavo leggendo una nota a proposito di meccanica. L'obiezione che si potrebbe confondere con l'astratto meccanica, che indica il contenuto di un ramo della fisica, oltre che la tecnica di questa professione, è infondata, poiché il contesto rende impossibile tale confusione. Quindi specificare sempre il contesto in cui usiamo le parole. Esatto. Ed uso anche chiamare una donna meccanico al maschile, ma questa scelta può creare nel discorso qualche problema per le concordanze. Ottimo. E vorrei anche sottolineare la modalità in cui l'ha letto Giulia. Complimenti. Io farei partire una canzoncina. Sono d'accordo. Sono andata a spulciare la lista di questa settimana e ho deciso di mandare questa agli ascoltatori, alle ascoltatrici e anche a voi due. Indovinare che canzone è. Buon ascolto. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Che

Perché comunque adesso, mentre stavamo ascoltando questa canzone, stavamo anche un po' chiacchierando tra di noi e ci siamo resi conto che comunque, cioè, è anche importante parlare di delle parole, della linguistica e anche del linguaggio, un linguaggio che tra l'altro abbiamo affrontato in altre puntate, proprio perché spesso diamo per scontato tantissime cose e non ci rendiamo conto di quello che stiamo dicendo. Basta pensare a quante violenze, per esempio, subiamo e agiamo tutti i giorni perché non siamo attente al nostro linguaggio. Con violenze chiaramente non si intendono per forza quelle più tragiche, più drammatiche. Violenza è... ce ne sono di diversi livelli, no? Diverse intensità. Basta anche banalmente chiamare una persona con l'articolo sbagliato. Per cui, insomma, bisogna stare attenti e porsi sempre molte domande proprio per evitare tutto questo e per svelare anche tutte quelle cose più insidiose che stanno nella lingua, nel linguaggio, nelle parole e costruire un mondo migliore senza ingiustizie. Hai detto molto bene, brava. Grazie. Decisamente. Quindi, in realtà adesso passerei la patata bollente a Giulia di Edimburgo. Dai, Edimburgo. Beh, anche di Edimburgo ormai. No, stiamo parlando di linguaggio. Il cuore è lì. Ma un po' diviso, dai. Come tutti quelli che vivono in un altro paese. Abbiamo il cuore diviso in due. Qualcuno, non mi ricordo dove l'ho letta questa cosa, forse una mia amica che vive all'estero da tanto tempo ha scritto questa frase bellissima un giorno e io condivido. E no, guardate, visto che ho fatto la secchiona, come dicevo, e mi sono andata a leggere un po' di articoli della nostra ospite Vera, che lei ha scritto nel corso di questi anni, posso farvi un riassunto di un articolo che ho letto. Lei già nel 2017 ha pubblicato degli articoli molto interessanti sull'uso del linguaggio e sulla scelta delle parole. È un articolo abbastanza semplice, anche molto breve, e ho estrapolato dei punti, diciamo, e quindi vi espongo un po' quello che lei sostiene in questo articolo e con cui io sono profondamente d'accordo. Come diciamo nell'introduzione di Vera, lei nasce anche come sociolinguista della comunicazione digitale, quindi molti dei suoi scritti fanno riferimento al modo in cui noi comunichiamo su social network o comunque, sì, potrebbe essere un Facebook, un Twitter, un WhatsApp o un blog in cui possiamo dire le nostre opinioni e quant'altro. E quindi molti degli articoli che lei scrive, soprattutto questo esempio che io ho letto, fanno riferimento al linguaggio digitale più che il linguaggio parlato, perché ragazze, è quello che noi facciamo per forse l'80% della nostra giornata, cioè io non tanto, però chi scrive su Facebook post personali oppure commenti ad altri post, spesso lo fa di getto. Lo fa senza pensarci, perché magari vediamo una cosa che ci fa arrabbiare e d'impulso mettiamo un commento, dimenticandoci che il commento che scriviamo rimarrà lì, anche se lo cancelliamo, rimane registrato, entra a far parte dei nostri algoritmi, ci farà vedere poi successivamente cose legate a quell'argomento. Niente va perso su questo web, chiamiamolo così. Quindi lei fa una riflessione su questo e io penso che sia importante sempre riflettere, non soltanto quando parliamo, ma anche quando scriviamo oggigiorno, sia un messaggio WhatsApp, sia un commento su Facebook, un post su Instagram, qualsiasi cosa, visto che tutti noi usiamo, quasi, non tutti, ma la maggior parte di noi usano questi mezzi di comunicazione. E il primo punto che lei sottolinea è avere un'idea chiara di ciò che vogliamo comunicare. Lo so che sembra banale, però cosa voglio dire con quello che scrivo? Che succede? Cioè, credo voglio che trasmettere un sentimento di positivo, un sentimento negativo, voglio trasmettere la mia rabbia, voglio trasmettere la mia gioia, oppure cioè, cosa voglio trasmettere, cosa voglio dire? E la scrittura impulsiva in questo non aiuta. Il secondo punto, quindi l'idea chiara di cosa voglio comunicare, ma anche il cercare le parole giuste. Cioè, cosa significa cercare le parole giuste? Significa guardare, uno, il significato, due, il registro e tre, il contesto. Questo lo dicevamo anche prima, cioè con appunto il riferimento a meccanica. Il contesto aiuta a capire. Se io sto parlando con, non so, faccio un commento su una pagina Facebook di insegnanti, userò magari un linguaggio tecnico. Se uso quello stesso linguaggio tecnico con, credo, 40%, 50% dei miei amici, magari non mi capiscono. Quindi la scelta delle nostre parole è importante, perché se vogliamo farci capire dobbiamo usare le parole giuste. E, assolutamente punto, d'accordo. E il terzo e ultimo punto di questo articolo era che, quello che poi Vera già ci diceva prima, è che le parole compiono azioni. E spesso ce ne dimentichiamo, cioè ogni cosa che noi diciamo, Giulia, trasmette... su questo mi viene da pensare a, anche al revenge porn, a questi fenomeni, o al bullismo, sì, al cyberbullismo, cioè le parole, sì, incidono sull'essere, sulle esistenze, sulle biografie, fanno male, creano dolore, creano delle reazioni corporee e delle reazioni emotive ed emotive, per cui credere che una parola sia soltanto una parola, oppure che uno scherzo sia soltanto uno scherzo, è vero fino a un certo punto, proprio perché, sì, è con la parola che agiamo, che è azione. Quindi assolutamente. Sì. Soprattutto, soprattutto magari in una fascia di età in cui una persona si sta formando, cioè mi vengono in mente gli adolescenti. Io spesso ho lavorato anche a scuola, ho fatto vacanze studio con i ragazzi, gli adolescenti. Cioè loro, o anche noi stesse quando eravamo adolescenti, le cose che magari ci sono state dette ancora ce le ricordiamo, e magari non ci ricordiamo di cosa abbiamo parlato la scorsa settimana, perché anche l'età, la sensibilità che hai ad una certa età può farti assorbire il linguaggio in modo diverso. Sicuramente, quindi non soltanto quando io poi non sono non sono un'educatrice, io insegno lingue, però io penso che anche chi ha, e non ho onestamente in questo periodo a che fare con adolescenti, però quando anche si insegna agli adolescenti bisogna parlargli in un determinato modo, bisogna renderli già adulti, non bisogna trattarli da stupidi, perché altrimenti loro penseranno di essere stupidi. Non so come dire, poi non sono la più esperta per parlare di questo argomento, però era per dire che comunque le... Sì, comunque un altro esempio, Giulia, potrebbe essere il continuo sminuire l'altra persona, quindi dire non sei abbastanza bravo, oppure questa cosa la so fare meglio io. Questa cosa chiaramente genera nell'altra persona che riceve questi commenti un senso di frustrazione, di inadeguatezza e chiaramente anche un'autostima che non rispecchia la realtà. Sì, sicuramente. E l'ultimo appunto che faccio legato a questo argomento, appunto delle parole, dell'importanza delle parole, è un consiglio che da Vera, ma danno anche altri studiosi, studiose che ho letto. Ho fatto una grande ricerca in queste settimane, ho letto un sacco di cose, è sicuramente questa. Allora, se voglio dire qualcosa, non so esattamente come dirlo, mi informo. Cioè, se non conosco una parola, vado a cercarla, perché non possiamo e non dobbiamo pretendere di sapere tutto. Cioè, il famoso beneficio del dubbio. Se tu non conosci qualcosa... vai a leggerlo, cioè vai a cercarlo. Nessuno sa tutto. Tra l'altro leggevo che la lingua italiana ha 300.000 lemmi, e il lemme è una parola. Il lemme è una parola, ma noi ne usiamo pochissime. Grazie, Giulia. Cioè, usiamo sempre le stesse parole. Quindi, se vogliamo anche cambiare il modo di parlare, dobbiamo fare uno sforzo, perché il cambiamento non avviene in modo naturale. Se vogliamo imparare una parola nuova, anche in italiano, non sto parlando ad esempio dell'apprendimento di una lingua straniera, se c'è una parola nuova che in italiano non ho mai sentito, la trovo scritta e voglio memorizzarla, devo fare uno sforzo. Quindi, anche se parlo, cioè ogni volta che parlo, devo fare uno sforzo per far arrivare il mio messaggio in modo corretto e non abusare del linguaggio stesso. Quindi, innanzitutto, porsi delle domande e avere dei dubbi, cioè sto dicendo la cosa giusta? Riflettere, quindi pensare a ciò che voglio dire veramente, usando quella parola mando veramente il messaggio che voglio mandare, o forse dovrei trovare una parola diversa per dire questa cosa. E poi, secondo me, uno dei consigli migliori di tutti è scegliere il silenzio. Cioè, se non sai qualcosa, non c'è bisogno che tu parli. E parte l'applauso qui. Sì, se fossi una vera regista in questo caso, avessi i sound giusti, avrei fatto partire... Ascoltate, gente, un silenzio vale più di mille parole. Esatto. Lei faceva riferimento anche ai social network, non soltanto appunto a magari un dibattito che si può avere con amici, nemici, conoscenti, eccetera, ma anche proprio ai social network. Cioè, se ti trovi in mezzo a una discussione ma non sai cosa dire, non dire niente. Ti informi e poi rispondi. Questo, secondo me, è quello che dovremmo fare. Oppure accetti il fatto di non sapere e chiedi direttamente spiegazioni. Certo, per imparare qualcosa di nuovo. Sicuramente. Questa è utopia per me. Conosco un po' di persone che, pur di dire la loro e magari dicendo la cosa più fuori contesto, sbagliata, ma proprio tanto l'importante è sentire il suono della propria voce, credo. Wow. Dai, però c'è una cosa positiva in tutto questo. Sì. Che l'utopia esiste. Sai perché? Perché è il tuo secondo nome. Terzo. Quindi esiste, dai, su, un po' di... No, brava, questa ci stava. Però no, mi è piaciuto molto questo discorso, Giulia, legato sia alla scelta del contesto, il registro, e fermarsi a volte non è... Quindi mi taccio. No, ma direi che anche direi che sia anche una sorta di forma mentis questa. Cioè, non è, come diceva Giulia, ci sono sicuramente persone che questa cosa non ce l'hanno, però se la devono conquistare questa cosa, perché è giusto, è sacrosanta, secondo me. E avere anche quel, non so se chiamarla umiltà, oddio, magari così se sei già giudicante, però sicuramente essere più consapevoli di se stessi prevede anche questo, penso, no? Il fatto di non sapere e di non dover per forza dire qualcosa solamente perché ci si aspetta dagli altri, cioè si pensa che gli altri si aspettino che tu dica qualcosa. Sì, sì, ma è difficile come è difficile, ad esempio, iniziare a usare i femminili professionali, cioè sono cose che non sono completamente spontanee, cioè bisogna concentrarsi, è una scelta, no? È sì, una sì. Scelta di vita, una scelta linguistica. Io appunto insegno italiano a livelli anche molto bassi, quando insegno italiano insegno sempre i femminili professionali, sempre. E a volte correggo il libro, perché a volte i libri sono un po' datati e non hanno i femminili. Certo. Quindi ho fatto questa scelta. Oppure, ad esempio, ne parlavamo prima tra di noi quando c'era la canzone, io insegno inglese all'Università di Milano e ho questo gruppo di studentesse, appunto, sono in realtà, in italiano bisogna vedere di studenti, perché in realtà sono 10, sono 9 ragazze e un ragazzo, come scelta un po' controcorrente all'inizio delle nostre lezioni, ho detto Pierpaolo, che appunto è il ragazzo, gli ho detto Pierpaolo mi dispiace ma io comunicherò alla classe usando il femminile plurale, e lui mi fa no no non mi offendo, nessun problema. Un altro applauso direi sarebbe stato perfetto. Lo so che si potrebbe dire grammaticalmente non è corretti, ma ritorniamo appunto a uno dei testi sempre di Vera, non siamo troppo grammarnazzi, cioè grammaticalmente non è corretto, ok, maschile plurale, ok, però io liberamente posso scegliere, informando i miei interlocutori, soprattutto in un gruppo come sono i miei studenti, io li informo che userò un certo modo di parlare, quindi non è che lo dico senza informarli e loro pensano che io sia ignorante perché non so che devo usare il plurale maschile, gli dico guardate questa è una mia scelta personale. È un po' il contesto di cui parlavamo prima. Esatto, e tutti lo possono fare, è una scelta, dicono guardate che io faccio così. Vi informo prima perché so che non è una cosa che diciamo tra virgolette normale. Certo, ma Giulia, allora per gli ultimi minuti secondo sì. te va bene, mandiamo una canzone poi sì. Magari diciamo le ultime cose che volevamo dire, che ci siamo preparate, e poi direi che possiamo passare alla parte dei saluti. Sì, okay, va bene allora Giulia, Mercu, codice fiscale, no quello non lo diciamo. Ma perché tanto in Italia cosa ci fai col codice fiscale? Cioè, ci compri le sigarette? Ci compri le sigarette. Dai, non è poco. Non è poco. Allora, lancerei questa canzone, spero di pronunciarla bene, in caso le DJ correggimi, e da Supreme, Offline, questo non lo so leggere, c'ha dei simboli strani, beh insomma, beccatevela. Staccare, andare offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto poi non sei manca sopra. Dovrei dire a sta gente che non sente frate a pioggia sul blunt. Mi vengo nei colli che bro di che, ma ok, non vuoi niente. Quindi se qualcuno vale non lo sai, ti prenderò rose. Che farai passire se tradire fare ce ne vuole. E tra le spine due o tre lire di motivazione. Ma mica il tuo amore, non mica il tuo cuore. Del tuo cuore di ice. Se penso alle parole per potermi esprimere, non mi esprime, sembra un cantastorie. Quindi dire fino a questa fine che ci tiene a cuore. Ma non so se dire no oppure sì oppure boh. Che yeah. Ma se vai su YouTube quello parla di me. Che se parlo di ansia in blu te non vuol dire sto male. Quante cose professore non ci ho mai detto, non andavo a scuola. Eppure in New School sono dentro il consumato suole. Per le suore che fa le escort trasformo il dolore in dolore. Mi fa male lo stesso. Dovrei con la mia mente veramente staccare, andare offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto poi non sei manca sopra. Dovrei dire a sta gente che non sente però da piccia sto blunt. Mi vengo le coli che bro di che, ma ok, non vale niente. Quindi se qualcuno vale non lo sai. I get it, I know you love to hate me. Moving on, on, on, on, on. I get it, I know you like to date me. But you're wrong, wrong, wrong, wrong. I left it for the money, fair enough. Sorry, bitch, they don't really, really care enough. I'm sorry, we go, your numbers block. Stop, stop, stop, girl, you got dropped. You didn't believe me, nope. You didn't trust me, nope. Well, I can guarantee you, you're gonna put my music on. I had some patience, yep. I found a cadence. I thought I'd never say thank you all who did me wrong. Well, I'll be honest, I ain't the sympathetic. Got a problem about giving a shit. I'm apathetic, I'm a leader than the rest, and I know I'm hypothetic. Got no problem making a couple big hits, I wouldn't sweat it. Dovrei, con la mia mente veramente staccare, andare offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto poi non sei manca sopra. Dovrei dire a sta gente che non sente però da piccia sto blunt. Mi vengo le coli che bro di che, ma ok, non vali niente. Quindi se qualcuno vale sai, spalsi di stumore come un ascensore. Dico sono spento da ste storie. Rombe un colore ma 20 mezzo secondo brother. Ci faccio un quadro un po' malato, ce l'ho già in mente. Ok, fare rapper, quanto varrebbe una tua canzone che vuole te, di un influencer. Non alla scuola ma sono la new school. Quello vorrebbe, quello vorrei, quello con rap me. Fa bene lo stress. Non fra, colonna mente, però me sta creando un frame. Dimmi perché, sempre te, che non sei te. mia piccola tu faccia da sotto da me non sei una cazzo fra dovrà questa gente che non sente fra da piccia sto fra vengo le coli che pratiche ok non vale niente quindi se qualcuno vale non lo sa. Wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know. Eccoci qui, abbiamo ascoltato Soft, non riesco a leggere Giulia. Sophie Tucker. Soft, a posto. Allora, perché sei lontana, sì. Le distanze di sicurezza contano. Sophie Tucker, Good Times Girl, Charlie Barker. Cioè, fatto. Comunque le DJ ci manda canzoni. Dal titolo sempre illeggibile. Secondo me lo fa apposta per metterci in difficoltà in diretta. Sta già commentando, è lì apposta sulla tastiera. È una leonessa da tastiera lei. I nostri errori. Una parla. Ah no, questa volta dice che Sophie Tucker sono un duo super femminista. Ho capito, però. Grazie Lady Jay. Grazie, però i titoli almeno traducili per favore. Insomma. No, comunque, oddio, ho avuto un vuoto. Stavo per dire qualcosa, ma non mi ricordo che cosa volevo dire. È terribile. No, è terribile. Benissimo. Ah, ecco, no, adesso mi è tornato in mente che in tutto questo, secondo me, ma in realtà non credo che sia soltanto secondo me, Vera ci ha un po' spiegato come mai è importante appunto stare attenti all'uso dei femminili e ha risposto in particolar modo a tutti quei commenti che personalmente io sento anche spesso in giro da amici, amiche, compagni, compagne, eccetera. Che tutte le volte che sentono che qualcuno usa per esempio la U finale per non specificare il genere a cui ci si sta riferendo, rimangono sempre molto scettici e anzi dicono però se dici tutto non si può sentire, insomma. E qua ovviamente si torna a quello che diceva anche Vera, dell'abitudine, l'uso abitudinario delle parole. E chiaramente qua c'è un lavoraccio da fare, perché secondo me, anche se appunto non c'è un giusto o sbagliato se mettere la U a fine parola oppure l'asterisco, la chiocciola, che chiaramente poi in particolare da questi è più difficile magari anche pronunciare con la propria voce, però è importante insistere anche su questo, perché bisogna anche un po' scardinare l'ottica binaria in cui siamo ancora immersi. Sì, forse magari visto che al momento la forma parlata è difficile, perché non iniziare a farlo nella forma scritta? Cioè, non è che possiamo iniziare a avere questa attenzione nello scritto e poi quando si troverà, non lo so, perché poi i cambiamenti linguistici non è che sono imposti dall'alto, di solito i cambiamenti linguistici avvengono nella società e poi le cose si normalizzano. Iniziamo a farlo nella forma scritta. Ho appena ricevuto una piccolissima testimonianza da parte di mio papà, che ci ascolta e dice che le sue e che colleghe salutiamo calorosamente. Salve papà di Giulia, papà e mamma. Ciao papà di Giulia. Ciao mamma, ciao papà. Un po' come in TV. Esatto, che diceva appunto che lui fa parte di un club filosofico e le sue amiche, colleghe filosofe di Torino spesso usano l'asterisco al posto della vocale finale quando scrivono carissimi, quindi carissimi, carissime, e tutte e tutti usano l'asterisco finale, quindi io presumo che non lo dicano, però lo scrivono, quindi si può iniziare anche così. Questa piccola attenzione. Certo, e poi sicuramente non ci si può neanche limitare solo a questo, perché poi è facile, no, essere politically correct, quindi scrivere tutti e tutte, o scrivere tutto, o tutto, certo. Asterisco, chiocciola, e poi nella vita personale fare le peggio cose. Quindi sicuramente non basta. Quello invece, sicuramente. Giulia, tu hai portato anche un altro pezzettino, vero? Sì, perché quando si parla di lingua, di parola, non si può ignorare Calvino. anche tu, insomma, quando te l'ho proposto eri entusiasta, quindi... certo, Calvino è Calvino. Sicuramente. Calvino è Calvino. Volevo leggervi un pezzo dalle Lezioni Americane. 6 proposte per il prossimo millennio. Per chi magari non se lo ricorda, le Lezioni Americane sono state scritte a metà anni 80, quindi questo testo in particolare nell'84, e sono divise in 6 argomenti, e questo è un pezzettino da esattezza, quindi dal capitolo sull'esattezza. Sono 3 pezzettini, e se volete ve li leggo. Vorremmo tanto. Vado. Allora, mi calvinizzo un'altra cosa. Allora, lui dice: perché sento il bisogno di difendere dei valori che a molti potranno sembrare ovvi? Credo che la mia prima spinta venga da una mia ipersensibilità o allergia. Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, sbadato, e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che questa mia reazione corrisponda a un'intolleranza per il prossimo. Il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso. Per questo cerco di parlare il meno possibile. E se preferisco scrivere è perché scrivendo posso correggere ogni frase tante volte quanto è necessario per arrivare, non dico a essere soddisfatto delle mie parole, ma almeno a eliminare le ragioni di insoddisfazione di cui posso rendermi conto.

ci sguazziamo. Ci sguazzo, infatti no, perché parlavo, maestra, professoressa. Appunto, pensavo alla mia di situazione specifica. Maestra, professoressa, bellissimo. Impiegata. Anzi, io mi sento chiamare anche troppo, quindi torno nel silenzio. In effetti. Però avrei scelto una canzoncina tra quelle che avete selezionato voi questa settimana, che secondo me, visto quello che stava dicendo Giulia e quello che ha letto, adesso non conosco benissimo il testo, però già il titolo mi intriga. Ok. Lancerai questo chun, Lady J. Sei pronta? Il chun? Il chun. La chun. Che cazzo è? Ce l'aveva spiegato l'altra volta, è la canzone in radio quando mandi la nuova canzone. Va bene. Però mi è venuto il dubbio sull'articolo. Ai ai ai. È una parola in inglese, no? Lancio chun. Indefinito. E vado. Vai. Wow, questa chun è fantastica. No, vabbè, ma siete tutte simpaticissime proprio. Allora, Giulia, la nostra professoressa di italiano e inglese, adesso ci dirà esattamente la fonetica di questa parola. Così come l'hai spiegata prima. Dicevo che quando in inglese abbiamo un suono D-U o T-U, dobbiamo fare un D-U o T-U, quindi sarà un T-J-E-U ad esempio. Quando diciamo do you know, non dobbiamo dire do you know, ma do you know, quindi do, e così tune è la stessa cosa, non tune. Vabbè, almeno vi faccio ridere. No, sono contenta perché... Sono contenta perché state ridendo tutte di gusto, anche quelle dalle altre parti sparse per la Lombardia, e, però vi assicuro che quando abbiamo fatto la prima puntata dopo lo stop estivo, che è durato fino a novembre tra l'altro, però e la Jè stava dall'altra parte della, della chiamata internet sul tappero di PC, vi giuro che... Da come sentivo io nelle cuffie sembrava un chun chun. Quindi adesso abbiamo capito che in realtà è colpa di Lady J. Sì, è colpa assolutamente colpa di Lady J. GRG è sempre colpa sua. Male che vada, ho appunto creato un nuovo termine per le ribelli, le chun. Va benissimo, questi neologismi sono sempre ben accetti. Ma il mio microfono si sente? No, te l'ho silenziato. Non me l'ha silenziato davvero? No. Certo. Ma si sente? No. Sì, si sente. Ok, non lo so, c'è stato un change tecnologico che non capisco, invisibile. No, ma arrivano altri messaggi di simpatia dagli ascoltatori qua, ma grazie, vabbè, io sono una persona molto autoironica. Quindi... Tra l'altro lancerei qua un altro ambito di riflessione molto importante, molto bello, che è di grande dibattito tra i sociolinguisti, è l'uso degli inglesismi. Ragazze, potremmo farci un'altra puntata. Madonna, sì, beh, noi l'inglese non lo sappiamo. Infatti potremmo parlare in italiano e limitarci a quello. Non serve sapere l'inglese per usare computer. Gli inglesismi, non l'inglese. L'uso degli inglesismi, quindi l'uso di computer, di mouse, eccetera, eccetera. Vabbè, infatti, dai, quello lì è quasi italiano ormai. Esatto, bravissimo. Che, infatti, come dicevo questo prima, ho studiato in linguistica all'università e facendo francese avevo scoperto che i francesi sono super attenti a questa cosa e hanno evitato come la peste tutti questi termini in inglese e hanno il loro usano proprio quello francese originale autoctono pur di non usare l'inglese. Ma tra l'altro invece... anche Mussolini aveva fatto una roba del genere, no? O sbaglio? Sì, no, esattamente. No, in generale io leggevo dei testi che l'italiano invece, per quanto riguarda il linguaggio tecnologico, la maggior parte dei termini ha deciso semplicemente di prenderli dall'inglese e di mantenerli. Qualcosa abbiamo tradotto, ma e onestamente è anche più comodo, no? Perché poi uno, se si trova in un ambiente, cioè se vai su un sito dove è scritto tutto in inglese, magari qualche parola la capisci. Però ragazzi, gli inglesismi sarebbe un'altra puntata, secondo me. Sì, perché sì, facciamola! Ci sono varie scuole di pensiero, varie teorie. E sempre tutto dipende dal contesto alla fine, da quello che io voglio comunicare. Ecco. Questo, esatto. Torniamo sempre sul punto. Vabbè, ma anche la traduzione di gender fluid e tutte queste altre parole, secondo me, cioè che sono inglesismi, che anche capire come mai magari non esiste l'equivalente in italiano. Magari potremmo anche fare la combo di puntata con te e Vera di nuovo, e, visto che comunque si tratta sempre di linguistica, no? Sì, sì, sicuramente, sicuramente. E società è sempre sì, certo. tutto legato. Poi, secondo me, sono argomenti... Cioè, è interessante interrogarsi, no? Su perché, diciamo, certe cose o... Ah beh, guarda, o forse lì... sono io flippata, no, non no, lo so. No, guarda, non sei l'unica, io mi faccio tante di quei di quelle seghe mentali su qualsiasi roba insomma che si può leggere con la prospettiva che usiamo noi, quella di genere, quella femminista, per cui guarda, io capisco perfettamente perché inizio e non finisco più, mi perdo nei meandri del mio cervello, seppur piccolo, comunque riesco a perdermi. Non è sicuramente piccolo. E no, inviterei comunque anche chi ci ascolta, se avete domande, curiosità, cioè scriveteci, possiamo affrontare magari degli argomenti in prossime puntate che vi incuriosiscono. Esatto, è vero. Quindi facciamo, cogliamo la palla al balzo per ricordare i canali? Certamente. Vai. Vai Giulia, tutto tuo questo momento. A quale Giulia stai parlando? A te. A me. Allora, carissime, carissimi, carissimu, ci potete trovare come al solito su Telegram. E per scriverci selezionate chiocciola radio zam trattino basso chat. Mi sono fatta furba, lo posso leggere da qua. Brava, e madonna. E, oppure c'è l'altro canale Telegram radio ZAM dove, noi, dove non ci si può parlare, dove non ci si può scrivere, ma dove noi vi bombardiamo con tutti i nostri contenuti, sia delle dirette che dei podcast che di cosine interessanti, dove manderemo sicuramente qualche richiamo a Vera Gheno, i suoi articoli o i suoi testi nei prossimi giorni. Ricordatemelo perché io poi me lo dimentico. Poi in realtà abbiamo anche il nostro canale Instagram, sia delle ribelli che della radio. Allora, quello della radio è Radio Zammi Sud. Sì. Di tu quello delle ribelli. Le trattino basso ribelli. Trattino basso. Zam. Zam. Ecco. Bam, un altro Bam. Applauso. Wow! Andrea sarà molto fiera di noi che non abbiamo sbagliato. E poi hai detto anche un'altra cosa, i podcast. Perché noi ovviamente ogni puntata la registriamo e poi la sistemiamo giusto quello che serve e li rendiamo disponibili in forma di podcast. Sì, mi piace questo plurale maiestatis che hai usato quando è solo una persona. Perché noi siamo un gruppo, siamo un gruppo, io sì, ho il senso di gruppo. Sì, e questa persona si rifiuta di insegnarci a fare i podcast. Mannaggia. Vabbè, sì, quindi hai detto archive. E invece per andare a vedere anche tutte le vecchie puntate o comunque la radio, avere un'idea dei programmi o sapere che cosa succede a ZAM, c'è il sito internet. Esatto, lì si trovano tutti i podcast, tutte le varie iniziative del nostro amatissimo centro sociale. E poi chiaramente anche su Facebook, sulla pagina Facebook della radio, saranno disponibili mano a mano tutti i podcast. E anche lì ci potete scrivere Radio ZAM. Bene. Li abbiamo detti tutti? Tutti, tutti. Direi ascoltiamo Giulia e Giulia. Ascoltiamo. Sì. Direi mandiamo l'ultima canzone. Mi raccomando Giulia, che sei vicino a me, sceglila con... cognizione di causa, perché l'ultima è l'ultima spaccare. E noi dopo rifacciamo i saluti o ci stiamo salutando adesso e quindi questa è l'ultima, no, e chiudiamo. Ascoltiamola e poi ci salutiamo. Ascoltiamola e poi ci salutiamo, va bene. Va bene. Sì. Quindi? Quindi panico, quindi? Vuoto. Cervello. Quindi in realtà Giulia da Edimburgo in realtà ha preparato la canzone per noi. Dimmela quale. No, stavo perciulando. Era già andata. Ah, ok. Non so cantare, mi dispiace. Allora, cavolo. Mando questa che mi piace molto, vado proprio a sentimento mio. No, posso cambiarla all'ultimo? Ti va prego. Bene. No, questa la metto per ultima. Ah, ok, va bene. È la allora, finale. Va bene, va benissimo. Va bene allora. Va bene. Stromae. Tu le meme. Et tous les mêmes, macho méchu, monde mauvais est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine, que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Un po' sono contenta, anche se mi piace Stromae, com'è che Stromae. Stromae. Sono contenta che sia finita, perché adesso ci salutiamo e poi ascolteremo una canzone bomba a dir poco. Bomba a dir poco. Giulia, Giulia da Edimburgo, tu non puoi sapere qual è, perché non puoi vedere che cosa. Esatto, ma potrai sentirla a tempo debito, quindi preparati. Sì. Prontissima. Ok, allora, quindi direi che la puntata delle ribelli è terminata e sono le 18:59, abbiamo recuperato la mezz'ora che abbiamo perso all'inizio, ahimè, e abbiamo parlato quindi di linguistica, di parole e di questioni di genere e speriamo che di aver affrontato il tutto nel modo migliore, o almeno queste sono state le nostre intenzioni sicuramente. Ringraziamo ancora Vera Gheno che è stata con noi e che ci ha portato tutta la parte di studio e di scienza al riguardo. Ringrazio Giulia da Edimburgo che ha avuto l'idea e l'ingegno e la prontezza di seguirmi e nell'avere tanta pazienza per... preparare questa puntata, santa, santissima. E ringrazio anche l'altra Giulia che ha appena finito di sbadigliare. Ho fame. Che sta dicendo che ha fame e che è stanca, giustamente, e che ci ha aiutato a fare la regia. E quindi grazie anche alle DJ per il supporto musicale e grazie a tutte le ribelli e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie a te, perché hai sempre questa voce meravigliosa in radio, te lo diciamo sempre tutte. Esagerate. Merveilleuse. Esagerate. Bene, grazie a tutti e a tutti che ci hanno ascoltato, che sono stati con noi. Che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Di aspettare la diretta. E comunque ci sarà il podcast, come dicevamo prima, per chi se lo fosse perso, si fosse perso un pezzettino. Mm-hmm. Quindi ricordiamo il prossimo appuntamento domenica prossima alle 17, si spera. Chissà quale problema tecnico avremo. Esatto, mandiamo, facciamo un sondaggio. Potrebbe essere. Leggiamo, io sarei curiosa. E quindi vi salutiamo con questa bellissima canzone, il mio gruppo preferito, per cui so di essere nata nel decennio sbagliato. E beh, è un augurio e un invito per tutti. Tutti e tutto. Buon ascolto. Ciao ciao ciao ciao, ciao, ciao.